No!

Richesse, c'est que pauvre. Thank you. carcere là qui m'educava il deserto sol vivo perché ignota e mia regale stirpe i miei parenti sognarono nel trono Soccorrimi, pietà.

感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。 Oh. Toujours sa douce.

Un dì all'azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di fiore pioveva oro il sole e folgorava d'oro il mondo pare alla terra un immane tesoro come un bel di lima Quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo.